Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie capovolgendo l'agenda e le priorità. Noi mettiamo gli altri animali in pole position in ogni dibattito. Cerchiamo gli altri animali nelle notizie di attualità, di cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Restate all'ascolto per capire meglio che cosa intendiamo dire. Questa è la puntata numero 658, nella quale, con un po' di raucedine, parleremo dei recenti fatti di cronaca riguardanti un orso e un lupo morti per mano umana, anche se in due situazioni differenti, dimostrando però uno stesso deprimente teorema. Torneremo poi sulla vicenda dei cinghiali di La Spezia, per un commento a cura del presidente della LAV, Gianluca Felicetti, al quale abbiamo posto una serie di domande affinché vengano chiariti gli aspetti più controversi della vicenda. Parleremo anche di India, di sfruttamento dei suoli, del fratino e del tramonto del ruolo di salvataggio sulla neve del cane San Bernardo. Ci sarà spazio anche per una ricetta vegana, perché chi dice di amare gli animali ha ormai la possibilità di sperimentare un'alimentazione cruelty free, profumata e croccante. Tutto sarà generosamente musicato dal nostro eclettico Gabriele Palloni, vegan chef e DJ all'occorrenza. Speriamo di avervi incuriosito. Cominciamo la nostra carrellata di notizie con un bollettino triste ma necessario, perché due animali selvatici che vivevano liberi sono stati uccisi dalla mano umana nei giorni scorsi in luoghi diversi, in modi diversamente tragici, ma dimostrando uno stesso teorema, ovvero che questa società non è più disposta a tollerare l'animalità e le sue logiche decisamente diverse e sottratte a quelle umane, soprattutto quando si tratta dello sfruttamento dello spazio naturale e del vantaggio economico per la specie umana. In Trentino, nella Val di Concei, a Ledro, un'orsa è morta durante un intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava da luglio 2021. Dai primi accertamenti dell'equipe veterinaria sarebbe emerso che l'animale è deceduto a seguito della posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l'anestetico ha fatto effetto. Questa versione però sembra quasi addossare la responsabilità all'orsa stessa, che non si sarebbe posizionata come avrebbe dovuto. In rete tuttavia serpeggia un dubbio inquietante, ovvero che si tratti di un altro errore veterinario nelle operazioni di anestesia, esattamente come avvenne per Danica nel momento in cui le fu somministrato il sedativo. Le manovre di rianimazione dell'orsa si sono rivelate inutili. Si tratta dell'orsa F43, femmina 43, da tempo monitorata in modo intensivo e oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l'uomo. Queste sono le parole di una nota della provincia di Trento che parla della necessità di monitorare in modo intensivo i soggetti problematici nel cercare anche di modificarne il comportamento che può comportare incidenti come quello occorso, dati i rischi intrinseci in operazioni delicate condotte spesso in contesti e condizioni ambientali non facili. Cogliamo questo comunicato come una sorta di velata minaccia agli orsi e una richiesta anche di normalizzazione, diremo, verso i cittadini, cioè gli orsi non devono interferire con la società umana. Se lo faranno, si dovranno assumere i rischi conseguenti. Siamo quindi in sostanza sullo stesso piano di un altro qualsiasi animale rapace concorrente. Quindi è una lotta per la sopravvivenza, però non è ad armi pari. Loro hanno solo i loro corpi, noi abbiamo trappole, sedativi, veterinari e armi. La domanda che poniamo è: ci sembra giusto? Just to please you, she's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows ya. She's got Betty Davis eyes. Dal Trentino passiamo alla Lombardia, dove in Val Chiavenna un lupo è stato ucciso e decapitato. La testa del predatore è stata appesa come un trofeo a un cartello stradale all'ingresso della frazione di Era, nel comune di Samolaco, che si trova in provincia di Sondrio. Accanto è stato esposto un lenzuolo con il seguente slogan: «I professori parlano, gli ignoranti sparano». Quindi un atto criminale macabro che vede, oltre all'ennesimo delinquenziale episodio di bracconaggio verso il lupo, anche la triste esibizione della sua testa. Il messaggio è anche una minaccia, non solo verso la presenza del predatore, ma anche contro chi cerca di favorire una pacifica coesistenza tra i selvatici e le attività umane. Questa è la denuncia del WWF Italia, che auspica che le indagini portino a individuare i responsabili dell'atto criminale. Purtroppo, nonostante le centinaia di atti di bracconaggio che vengono censiti ogni anno nel paese, e che sono solo la punta dell'iceberg perché il fenomeno è molto più preoccupante, le condanne ai bracconieri negli ultimi decenni si contano sulle dita di una mano. L'impunità da una parte e la cattiva informazione dall'altra alimentano questo fenomeno, soprattutto nelle aree di recente ricolonizzazione del lupo, dove cioè il lupo è tornato a stabilirsi negli ultimi anni. Infatti nel 2021 il censimento ha stimato la presenza di circa 3.300 lupi in tutta Italia. Nonostante il trend demografico sia positivo, purtroppo non è stata eradicata la persecuzione umana, quindi ancora oggi lacci, trappole, esche avvelenate, colpi di arma da fuoco rallentano il processo di naturale ricolonizzazione in atto in buona parte del paese. Com'è dimostrato però da numerosi studi scientifici internazionali, al di là dell'aspetto etico, uccidere un lupo, oltre che un atto criminale, è anche inutile per risolvere i conflitti con il settore zootecnico. La strada da seguire è un'altra e passa anche dalla completa bonifica dall'illegalità. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Torniamo adesso alla vicenda dei cinghiali di La Spezia. Le due famiglie con i piccoli, rinchiuse in un giardino pubblico che secondo i regolamenti regionali liguri avrebbero dovuto essere abbattuti e che invece hanno visto un esito della faccenda molto diverso. Due puntate fa abbiamo mandato in onda un commento dell'attivista e autore Marco Reggio, che si era concentrato sul movimento animalista e antispecista e su come questo ha reagito e agito in questa particolare nuova situazione. Oggi invece affronteremo un aspetto un po' diverso. L'associazione LAV, Lega Antivivisezione, ha partecipato al tavolo della trattativa con la regione e il comune, facendosi in qualche modo anche interprete delle richieste del movimento spontaneo che si era attivato per salvaguardare la vita di questi animali. L'esito della trattativa, che non era affatto scontato, ha dato una seconda possibilità a questi animali, quindi un caso abbastanza unico, sicuramente un precedente prezioso per il futuro. Il popolo venatorio ha vissuto come un vero affronto questo salvataggio, mentre gli attivisti spontanei hanno manifestato perplessità sulla modalità della cattura, che tra l'altro è stata un po' problematica, e c'è stato sdegno per la morte di un piccolo cinghiale che è deceduto durante le operazioni di recupero, causando un forte dolore, rabbia, lutto e sconcerto negli attivisti. Ci sono state poi molte perplessità sulla scelta del luogo dove sono stati portati questi animali. Noi abbiamo censito in rete i più comuni commenti e le più comuni domande e perplessità e le abbiamo girate alla LAV, in particolare al suo presidente e portavoce Gianluca Felicetti, più volte ospite della nostra trasmissione. Sentiamo. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. Innanzitutto è da sottolineare che è la prima volta che degli animali selvatici cacciabili, e tanto più con il sospetto di una malattia come la peste suina africana, sono salvati da una condanna a morte. Solo appena un anno e mezzo fa, in un analogo caso a Roma, nella città, in un giardino pubblico, cinghiali con piccoli e un'adulta sono stati uccisi da parte dell'ASL veterinaria su richiesta del comune e della regione. Nel caso di La Spezia invece siamo riusciti, grazie alla mobilitazione, grazie a tutte le iniziative delle settimane scorse, a ribaltare quella che era stata la condanna a morte. Ovviamente anche noi siamo rimasti colpiti dai modi della cattura, in particolare dei piccoli senza telenarcosi. Per i due adulti, grazie anche alla presenza del veterinario di fiducia LAV, è andato tutto bene. Per i piccoli che sono stati catturati dal personale della ex polizia provinciale, ora regionale, e dai veterinari dell'ASL, i modi non sono stati sicuramente i migliori, anche se quando si tratta di catturare degli animali selvatici chiaramente non si può fare per favore e per cortesia. Per quanto riguarda la morte del piccolo, l'AB ha chiesto subito il referto autoptico ufficiale, e se, come abbiamo già scritto e detto, se emergeranno dati e prove che il fattore umano è stato decisivo per la morte di quell'animale, cioè se quell'animale non è morto di cause naturali, l'AB sarà la prima a denunciare l'uccisione, un reato previsto dal nostro codice penale, di quell'animale. Il luogo che è stato scelto dalla regione e comunicatoci solo all'ultimo istante, dopo aver bocciato purtroppo la nostra proposta di presa in carico LAV presso un rifugio in Liguria di nostra fiducia, è un luogo adattissimo per i cinghiali. Questa vicenda c'è anche molta ignoranza di chi pensa che un animale selvatico possa essere tenuto in un appartamento o in un giardinetto e che sia disponibile per fare dei selfie. A quegli animali selvatici deve essere restituita la loro animalità. Il luogo è un'ex zona addestramento cani da caccia, non più usata da tempo per questa attività, e che l'AV ha chiesto alla regione di poter trasformare in un rifugio per animali. Quindi un doppio risultato possibile positivo di questa vicenda è che quella zona può diventare un luogo di protezione degli animali e non più di maltrattamento. Noi siamo in attesa di una risposta positiva da parte della regione, così come da parte del proprietario e dell'affittuario. Informalmente tutti e tre ci hanno dato rassicurazioni che potremo presto avere questa gestione diretta, e stiamo lavorando proprio per questo risultato positivo. Se invece ci dovesse essere il risultato contrario, saremmo i primi a dirlo, sapendo che questi animali, se rimessi nel territorio libero, ridiventano degli obiettivi per i cacciatori. Rimanendo in questi 30.000 metri quadri, dove hanno cibo naturale, dove comunque gli viene dato, come dire, del cibo in più per poterli far riadattare alla loro animalità, noi siamo convinti che questa storia potrà finalmente essere in toto, non solo come dato di salvezza degli animali, ma anche di alternativa pratica per i purtroppo tanti casi che sempre di più ci sono di sconfinamento forzato degli animali selvatici nelle città e negli ambienti urbani. I watch them throwing flowers at my toes. There's a line that stretches down the driveway past my plain ends at the gift shop. Ancora conseguenze dei bombardamenti e della guerra. A Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, uno scimpanzé di nome Kiki è stato avvistato e filmato mentre passeggiava in un parco poco lontano dallo zoo in uno stato di spaesamento e confusione. Il primate era fuggito dallo zoo della città ma è stato convinto a tornare indietro dai suoi custodi, regalando un momento di tenerezza agli abitanti di Kharkiv e a tutto il web. Gli addetti del giardino zoologico stavano faticando a convincere Kiki a rientrare, ma appena è arrivata la pioggia, il primate è corso verso la sua custode. In una foto scattata da un passante si vede la donna con la giacca gialla seduta accanto all'animale, come una coppia che dialoga del più e del meno al parco. Nel video condiviso su Telegram si vedono i momenti immediatamente successivi. La volontaria fa indossare allo scimpanzé la sua felpa gialla e lo convince a ritornare allo zoo. Ovviamente, oltre alla sorpresa e alla tenerezza, noi non dobbiamo dimenticare di indignarci per una notizia del genere. Cioè dobbiamo chiederci perché Kiki, invece di essere nel suo habitat, si trova in uno zoo. Dobbiamo chiederci perché ancora esistano gli zoo. Dobbiamo chiederci quale piacere possa rappresentare vedere animali imprigionati in uno spazio ristretto e inadeguato che non risponde ai loro bisogni familiari, di relazione, di avventure e di scoperta, aspetti che rendono una vita degna di essere vissuta. E che non possono che mancare dentro un posto artificiale, statico, identico a se stesso e limitato come uno zoo. Inoltre dobbiamo chiederci se sia pedagogicamente corretto portare dei bambini allo zoo. Naturalmente noi abbiamo le nostre risposte. Voi datevi le vostre. Barbara Streisand. La Lipu ha denunciato la presenza delle ultime 600 coppie di fratino su 8.300 km di coste italiane. Il fratino è una specie di piccolo trampoliere, un uccello che ha la caratteristica di nidificare sulle spiagge e tra le dune marine europee ed è, anzi dovremmo dire sarebbe, una specie particolarmente tutelata a livello europeo nei principali accordi a difesa della biodiversità. Purtroppo la Lipu denuncia come il turismo, la pulizia quindi meccanica delle spiagge, la presenza delle moto, dei fuoristrada e dei cani non gestiti dai proprietari e liberi quindi di predare i pulcini, distruggano i nidi condannando la specie al declino. Dei fratini si è parlato molto in relazione al Jova Beach Party, ma il declino del fratino aveva già ricevuto un colpo terribile con l'urbanizzazione delle coste. La scarsità di nidi trovati, affermano i volontari della Lipu, ci fa capire la rarità di questa specie e nel contempo lo status di conservazione non ottimale delle nostre spiagge. Infatti il fratino è anche un indicatore ecologico dello stato di salute dell'ambiente costiero e la sua assenza è l'indice di una spiaggia priva di elementi di naturalità, dove le attività umane intervengono alterando l'equilibrio di un ecosistema complesso. Abbiamo bisogno di fare rete in un'ottica di citizen science contro le deturpazioni, le opere inutili, gli eventi dannosi, gli illeciti ambientali e gli interessi economici di pochi, in modo da monitorare, proteggere e tutelare dal basso questa straordinaria specie visto che dall'alto mancano sia la volontà che le risorse. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. La sensibilità ambientalista non è un'esclusiva del primo mondo. In India ci sono proteste nello stato centrale del Madhya Pradesh per la decisione del National Board for Wildlife, l'organismo del governo federale indiano, di autorizzare l'apertura di miniere di sabbia in una foresta protetta. Le miniere potranno occupare solo una porzione di territorio pari allo 0,5%, ma le associazioni ambientaliste denunciano da anni la presenza abusiva nel santuario di numerosi punti di estrazione, che dotati di macchine scavatrici e trattori sono già divenuti la più redditizia attività del distretto. La decisione distruggerà il santuario, dice da Bhopal, la capitale del Madhya Pradesh, l'esperto naturalista Sudhir Sapra. È in gioco la sopravvivenza degli animali del parco, tartarughe, delfini d'acqua dolce e in particolare il gharial, che è una specie endemica di alligatore, di cui in quest'area si conta la più ampia popolazione di tutta l'India. L'argomento, insomma, degli ambientalisti è il seguente: una volta che rilasceranno i primi permessi, anche tutte le altre miniere già attive di fatto verranno autorizzate e quindi ci sarà un dilagare di escavazioni. Ed è difficile non dare ragione a questi attivisti indiani. Le terre rare e le risorse minerarie e agricole sono infatti dei bottini che stanno facendo gola, specialmente in un periodo come questo di fortissima crisi economica e finanziaria. Chi se le accaparra potrà giocarsi meglio gli anni che ci restano davanti. E adesso una notizia che ha a che fare con un tema da noi più volte affrontato, ovvero l'antiquata e per certi aspetti crudele selezione delle razze. La notizia arriva da Berna, in Svizzera, dove i cani San Bernardo non verranno più impegnati nel soccorso in alta montagna, bensì nel sostegno agli anziani, ai bambini e ai disabili. Questo perché sono cani troppo grandi e pesanti per salire sugli elicotteri del soccorso alpino e dunque verranno riciclati, venduti a famiglie o utilizzati per visite sociali in case per anziani o in scuole una volta svezzati. A lungo utilizzati per accompagnare i viaggiatori e soprattutto per ritrovare e salvare i dispersi nella neve e nella nebbia, il San Bernardo, con il caratteristico bariletto di legno al collo, è assimilato nell'immaginario collettivo a un cane da soccorso. All'epoca i cani intervenivano attorno all'ospizio del Gran San Bernardo, dove vivevano, e servivano anche a sostenere gli uomini in attività legate al trasporto. Ma con l'utilizzo degli elicotteri, i soccorritori hanno preferito razze più leggere. Il San Bernardo quindi non è più utilizzato per le sue dimensioni e per il suo peso, che può raggiungere gli 80-85 kg. Occorre infatti poter portare il cane in braccio per metterlo nell'elicottero e si tratta anche di una questione di posto nell'abitacolo. Labrador, pastori tedeschi, pastori australiani e Golden Retriever pesano in media meno di 35 kg e sono particolarmente resistenti. Ecco che dunque, a seconda dei parametri delle razze, viene un po' deciso a quali attività destinare questi cani. Ma anche il contrario, a seconda dell'attività che viene decisa, viene un po' calibrato il loro peso, la loro misura, la loro altezza, la loro forza. Quindi, naturalmente, le due cose si influenzano reciprocamente. Oggi il San Bernardo non è più impiegato per le sue capacità di cane da valanga o di ricerca, ma per la sua stabilità mentale, per il suo lato sociale e per la sua apertura. Quindi i cliché del cane San Bernardo sono al tramonto per ragioni, possiamo dire, tecnologiche, e noi ci auguriamo che anche sulla selezione delle razze dei cani, fatta allo scopo di rendere un servizio agli umani, ci sia prima possibile un dibattito e possibilmente anche un ripensamento. Not even Marilyn Monroe. Keep it this girl. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free, niente po' di meno che ai cani San Bernardo. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ricetta ispirata ai bellissimi cani San Bernardo, o meglio alla grappa contenuta nell'iconico barilotto che portano al collo. Ricordandovi che comunque anche il Cujo di Stephen King era un San Bernardo, vi racconto la ricetta delle bracciole di frumento alla grappa. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di glutine di frumento, 50 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, un bicchiere di grappa, 10 bacche di ginepro, un cucchiaino di semi di finocchietto, aceto di vino, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Per prima cosa mescolate il glutine di frumento con la farina di ceci e una presa di sale. Aggiungete l'acqua mescolando fino a quando non sarà tutta incorporata e avrete ottenuto un impasto piuttosto compatto. Dividete l'impasto così ottenuto in 4 parti, adagiate su un foglio di carta forno e coprite il tutto con un secondo foglio spennellato di olio. Poi con le mani o il mattarello schiacciate ottenendo delle belle braciole. A parte tritate grossolanamente le bacche di ginepro e i semi di finocchio. Aggiungete una presa di sale e l'aceto. Quando il sale si sarà sciolto unite 3 cucchiai di olio extravergine, 2 cucchiai di grappa e abbondante pepe. Emulsionate bene e lasciate riposare 5 minuti. Fate macerare le braciole di frumento nella marinata girandole più volte in modo che siano ben impregnate in ogni parte, e lasciatele riposare per 2 ore in frigorifero rigirandole di tanto in tanto. Trascorso il tempo necessario, adagiate le braciole in una padella antiaderente ben calda e spennellata di olio e fate cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti per ogni lato. Aggiungete il resto della grappa e lasciate ritirare sempre a fuoco lento. Togliete dal fuoco e servite le braciole alla grappa ben calde. We live and dream about the future. Please ask Neil, I need to pound well now. Sift through the annals of our flavored times, our heroes and all their fatal flaws. Me, Marlon Brando. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce molto rauca che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 659 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.